Rosie, dimmi tutto. Antonella, stavo notando una cosa anomala, un po' come è successa a te. Quindi secondo me qualche falso contatto al lato bocchettone dell'apparato c'è. Allora, avevo attaccato il lineare per provarlo, no? E non dava watt, vedevo che dava i watt, sembravano quasi quelli di un baracchino. E il quaderno mi si era abbassato, ho detto ma che strano, tocco appena appena lo spinotto dietro sul bocchettone femmina dell'apparato e riprende a funzionare. E quindi anche quando cambio o spezzone oppure metto l'antenna diretta, come in questo caso che ho l'antenna diretta, devo muoverlo un po' e trovare la posizione giusta, perché è come se il pin centrale o ballasse nel bocchettone che è largo, o che sia ossidato un po', però non mi sembra ossidato, a meno che dentro non ci sia qualche saldatura fredda del centrale che va al PCB, alla scheda, può essere. No, non lo so, la verità, non l'ho guardato, Marco, non ho toccato niente, non sai come sono fatto io. Io vado a prendere un apparecchio, l'apparecchio è nuovo, e cosa del genere, non lo tocco. Così. Poi vabbè, ti avrei visto, io ho l'antenna, credo che se io uso il cable mi crea lo stesso problema, hai capito, sale e scende, non è che possa controllare cosa, che di cazzo di diavolo è, che so che il palo è rugginoso, quindi a un certo punto adesso vedo un po' di prendere un palo nuovo e vedere un pochettino come stanno le cose, perché cioè così mi falsa tutto, hai capito? Non posso fare manco misurazioni a un certo punto. Se c'è il vento salgo, se non c'è il vento scendo, poi cominciano i watt che vanno per i fatti suoi, hai capito? Io pensavo che fosse magari, invece non c'entrava proprio niente la verità, perché la parete funzionava bene, quindi ti crea il dubbio, hai capito? Quando io mi sono accorto, quando ho messo il dosso, ho detto sì, e cominciavano a salire come adesso, 1,3, 1,8, 1,3, 1,8, hai capito? 1,8 adesso, ciò, 1,3, 1,4, a volte scende a 1,1. Non vedo uscire da lì, guarda che lo smita, guarda, senza che io parlo. Ma sono le tre. Come cazzo fai a misurare? Il discorso è quello. Hai capito? Non te la accorgi, non un casino, cazzo. Brecco. Registrato, adesso lo mandiamo avanti. Comunque sì, Antonello, non è un problema, io me ne accorgo comunque quando avvito il PL, se il QRM scende troppo, vuol dire che lo devo avvitare meglio, cioè devo beccare la posizione giusta. Poi quando trasmetti te ne accorgi, perché sale molto lo smitter, più del normale, capito? Questa è la posizione normale a cui lo vedo. Se sale troppo vuol dire che c'è quel bocchettone, quel pin centrale che non tocca bene. Per adesso va bene, c'è una bella recezione in banda laterale e tutto il resto. Va bene, io mando avanti il break. Avanti il break con nome, cognome e codice fiscale. Ci accontentiamo anche del solo nominativo, Brecco. Questo è l'ultimo, come si dice, l'ultimo delle due, se non mi ricordo male, di ieri, avanti. Mi fai il controllo radio, per favore? Prova, non c'è problema. Buona, radio buona. Comunque credo che sia il Viking. È entrato anche l'altra sera, però il nome non l'ha detto. Esatto, il Viking, Giovanni Stanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio, grazie. Buono, ottimo, sia il segnale sia la modulazione. Il segnale 9 più, non posso essere più preciso, però 9 più, ben oltre il 9, K. Grazie mille, dai, un saluto e buon proseguimento, ciao, grazie. Ciao, alle prossime, Giovanni Stanco. Io vabbè, sono avvetto, quindi io sono Alessio avvetto. Ah, così è. Antone, sai cosa ho trovato in rete? Ho trovato la tabella dei canali e frequenze di questo apparato. Siccome c'è 50 canali per banda e quando vai su canali oltre 50 non ne capisci niente, no, di come sono disposti i canali, ho trovato una vecchia, non so se era su Ari Fidenza o su Roger K, credo su Ari Fidenza, uno ha messo la pagina con canali e frequenze e dove sono segnati anche i canali alfa. Allora, ti spiego una cosa strana, sui canali normali, sui normali canali, cioè sulla banda principale, non hai canali alfa. Invece quando vai oltre il canale 50 sono compresi anche i canali alfa, cioè i canali dal 51 al 100 sono tutti distanziati di 10 kHz l'uno dall'altro, quindi non hai canali alfa lì, cioè te li copre già, invece sui canali normali no. E vabbè, quello non è un problema, si può anche modificare, lo sai, quindi adesso c'è uno stabile 1,5. Ok, allora scendiamo un pochettino. Tanto 1,50 non verrà più. Allora vediamo un pochettino. Si girano i coglioni, che è una cosa lucida. Vabbè, allora vediamo un pochettino, siamo in insieme cosa è veramente insieme potenza scendo, allora dovrebbe esserci, se è vero come dice il coso, vediamo un po', se sono trovato giusto mi adesso poi Antonio, stavo notando di questa tabella che questo tipo a matita aveva fatto la corrispondenza dei canali con i canali di sotto dei 34 canali, è presente, dal 26 al 34 erano canali di sotto, lui ha segnato la corrispondenza su questa tabella e poi ha segnato i canali alfa della banda alta, che cioè gli altri apparati normali risultano alfa e qua invece ce li ha tutti. Addirittura aveva segnato, quando esistevano solo i 23 canali, quei canali opzionali chiamati 22 alfa, 22 beta, che poi sono il 24, il 25 e via dicendo, dai. Sì, sono gli alfa e beta, sì, esatto, quindi sono il canale 40, infatti che avevo 231 e per quel motivo lì, sono alfa e beta. perché ci sono distanze addirittura di da 10 a 20, capito? Come per esempio da fare 10 da 10 all'11 normale c'è 12 alfa, quindi capito, tutto lì. Comunque bisogna un po' fare, memorizzarsela in testa, una cosa del genere. Una volta mi ricordavo tutti a memoria, quindi figurati tu. K, vabbè, i canali alfa e beta erano utili quando agisce con i 23 canali e magari c'era qualche apparato che aveva questa opzione in più, no? Adesso vabbè, i canali sono tutti gli apparati hanno tutti i canali alla fine. E questa praticamente questa tabella canali frequenze proprio di questo apparato l'ho stampata e l'ho plastificata in modo che anche se ci cade acqua, caffè non gli fa nulla, così mi dura in eterno. E appunto per quello è fatto bene. Adesso per esempio la tripla 5, io non capivo una mazza su che canale poteva essere la tripla 5 richiamata in banda laterale e risulta allora canale 55 su questo apparato. Beh, figurati. Auria. Mentre di solito la tripla 5 si diceva canale 12 dalla banda più alta, no? Una banda più su, canale 12. E qua il 55. Comunque riceve belle, riceve l'FM, eccetera. È un gran bel apparato. Per la staffa, te l'ho detto, stavo pensando di pigliare quelle piastre forate, quelle morbide, e metterla nel morsetto, piegarla a 90 per fargli proprio la staffa, per appoggiarla sia qua sul tavolino e sia metterla in macchina con le solite viti a galletto che uso io, capito? Ma falla, però una cosa del genere non falla a mano così come fai tu. Dovresti metterla nella morsa, piegarla e esce perfetta, capito? Da una parte all'altra. Sì Antonetto, l'ho detto, metterla nel morsetto e poi fargli proprio l'angolo a 90 gradi piegandola. E allora già va bene, bene. Alla Sisa, già lo sai. Ah sì, no, adesso c'è, come si chiama, l'hanno aperto a oggi, ci sono gli sconti, si chiama il Sidis. Ah, poi quella volta ti ricordi a chi ho dovuto chiedere lo schema? Non lo trovavo da nessuna parte, lo schema elettrico. Ho chiesto a quell'utente di quel forum e me l'ha mandato. Se non che cerco ieri e lo stesso schema che mi ha mandato lui lo trovavo da ogni parte. Capito? C'era un sito di roba antica con tanto di caratteristiche degli apparati e schemi elettrici, ai relativi schemi elettrici, però il manuale di uso non c'è, non che serva, però era per averlo. Già lo so, c'è una parecchio bene, ci ho buttato qua, aspetta che te lo ricordate, c'è l'altro amico che può riprendere, Franco, com'era? Franco Stanco, avanti. Franco Stanco, Lega International 3, te lo dico, ne volevano 120 euro. No, dimmi marca modello. Lega Larry c'è scritto, International 3, ne volevano quello, 120 euro, fatto da base. Allora, Iris qualcosa mi ricordo, e, per esempio dei Multimode e dei Lafayette c'erano i cloni di marche mai sentite, tipo, aspetta che marche erano, uno marca Pacific, probabilmente erano per gli altri mercati, tipo America, cosa ne so, Australia, Francia, quello che è insomma, ed erano i cloni esatti di certi AM International, oppure anche di certi apparati della Lafayette, ecco, comunque il fornitore di tutte quelle schede, tutti erano, a parte i 3009, i 3006, no, che avevano le IPT, tutte Cybernet, giapponese mi, cioè erano fatte in Giappone e lì ne sapevano. C'è un apparecchio di 45 anni che funziona quanto quelli nuovi, è incredibile. Aspettate due secondi. Eia, uno e due, sono passati due secondi, e riprendi. Sono ricatto. Scappa Antonè. Ascolta, ti volevo dire, mi stavo documentando. Praticamente il Clarifi era a un'escursione molto ridotta, mi pare sono più o meno 800 Hz, in più o in meno. E anche quando lo tiri fuori, sia in trasmissione che in ricezione, comunque non ti permette di andare a metà tra un canale e l'altro. E rimane sempre di più o meno 800 Hz, sia avanti che indietro. Questo di fabbrica, e ho controllato con l'altro apparato. Sono apparecchi vecchi che non sai che tu, quindi non c'erano 10 kHz più alti 10, capito? Di cosa è quello? Era un apparecchio perfetto, perfetto, bisognerebbe modificarlo, ma è toccano tu quello, indicato tu. Non c'è scritto niente nello stampato, c'è solo sostituzione dei numeri, poi vai a controllare le come si chiama, è un casino lo stesso. Purtroppo sono fatti così quelli, capito? Come la in quinto, in cose, multimore 2, multimore 3, è una cosa allucinante, multimore 3, cazzo, pigliava colpi, era una parte all'altra, c'era la prendere da un cazzo quando si incazzava e buttava la finestra. E quando la 27 era piena, sì. No, comunque a me di andare tra un canale e l'altro a metà non mi interessa, questo è da apprezzare così come l'apparato e basta. Era solo per dirtelo, dai, che avevo controllato col 3009, col frequenzimetro del 3009. E comunque dai, è un bel apparecchietto, all'epoca costava anche un pacco di dinà nuovo. La volta sì, adesso già è veramente diverso. Già ce ne sono in giro, non è che non ce ne sia. Auguria. Ma la fa per cercare. E sono quanti ne vuoi di quello. Quindi. Sì. Bene, bene, bene, bene. Sei innamorato di quell'apparecchio, perché cazzo, lo stai usando tutti i giorni, hai evaluato tutti gli altri e hai usato quello. Sì, gli altri li posso anche bruciare, regalare, buttare nel cassonetto. Ah, ieri non sono entrato, Antonè, perché eravamo fuori per commissioni assieme al maresciallo. No, io stamattina lì ero con... stavo lavorando con Marco. La verità, adesso la mattina devo lavorare di nuovo con... di lì, devo lavorare, quindi... mi faccio i soldini e mi prendo un bel apparato. Poi lo vediamo assieme e me lo ordini. Non costi molto e così me lo tengo di riserva, cioè prima mi voglio sistemare il catrico sul 2009, mi interessa di più quello che ho io, perché è un peccato, cazzo, che l'FM abbia problemi, c'ha 20 anni, cazzo, poverino, cazzo, neanche ragione. Stavo guardando sul ciclo elettronica vecchio, quelli che trovi in PDF. Stavo vedendo degli apparati di marca Asahi. Asahi con l'H, Asahi. Poi marca Formac. Formac, ti ricordi, esisteva il 777, che credo che fosse una specie di clone del Polmar Oregon. Beh, più o meno una cosa del genere dovrebbe essere. Ci sono gli apparecchi miei. L'altra volta sono andato sul sito di quelli di Alghero e c'era quel genere, stava vendendo un apparecchio tipo Tokai, eccetera, eccetera. E roba così, capito? Non è che ne volevano molto. Poi sono uscito con un vino, sono entrato verso le 8:30 di sera, figurati, siamo viaggiati tutti e due. Ah, così è. Aspetta, cos'altro ho visto qua su questi cataloghi antichi? Ti ricordi i famosi Sommerkamp, quelle specie di baracchini HF Sommerkamp che avevano, c'erano sia col frequenzimetro sia senza, e avevi quel selettore maledetto di canali che per cambiare il canale faceva un doppio clic, patà, cioè ti tornava appena appena indietro, facevi clic clic clic clic, se invece lo tenevi premuto al primo clic andava veloce il canale. Io l'avevo visto dal vivo da Saturno in Largo Cavallotti. Ho capito. Ci sono gli apparecchi di quel modello lì. Guarda, c'era Francesco, dovrebbe avercelo uno di quelli, a casa sua, c'è ancora vivo, quindi figurati. Però mi sembra c'era il suo mercato proprio, c'era, poi c'era, come si chiama? Quello, Giancarlo Teschio, cazzo. Quello ce l'ho in amicizia su Facebook. Il Maio, Lucia. Maio, quello nero lì, figurati. Colletto, quello sì che è bello, cazzo. Quello qui. Se riesci a verlo è un bijou 226 canali, quanto come quello lì che c'è tu, è uguale. A me piacevano un po' tutti, o poi tutti uguali erano, sì, qualcuno aveva qualche opzione in più, tipo l'Echo. Telefono, un attimo. Ok. Spammer, me lo mette in rosso, presunto spammer, quindi niente da fare. Anche a me ogni tanto arrivano queste chiamate strane, che se rispondi è chiuso già, se richiami dice numero inesistente, sono numeri che ti chiamano solo, ma non possono essere chiamati. Bella rottura. Mi lascia perdere, sono dovuto andare al circolo io a farmi sistemare il telefono da un amico. C'è un amico che ho conosciuto lì, la verità, sono andato con Marco, ho detto guarda, dammi la mano, ho detto, io so tutto come fare con questi qua. Ogni 3-4 secondi mi arriva una telefonata, sei tu che mi hai chiamato, ho ricevuto almeno 80 di telefonate, tutte spam, tutte bloccate. Poi mi ha detto, dice guarda, dice, ti hanno messo un virus, mi ha detto. Ti hanno fatto, in pratica ti hanno messo una specie di virus scaricato su WhatsApp, hai capito? Quindi non c'era verso di toglierlo, finché non aveva cambiato l'account e cosa del genere, hai capito? E si sono attaccati al tram, adesso non lo dicevo più. Adesso ho cambiato corso, ho visto che mi sono accorto che ho quattro tipi di WhatsApp, c'è anche di addirittura, quindi nel TCL che ho io, non so come funzioni fa questo telefono, la verità. Poi telefono da solo, qualche volta, non dipende dalla, forse è l'IA che li mette, non lo so. un casino questa intelligenza artificiale, quindi attacca per le spalle, tu non telefoni per niente, tu non fai manco un numero, ti aveva solo la chiamata, è lei che mi ha chiamato, Sì, sì, sono cose delicate, però Antonio, appunto, io nel mio smartphone ho un antivirus, non solo l'antivirus, ma è di quelli anche a pagamento, e ti spiego perché. Se tu prendi quelli gratuiti, l'antivirus ti protegge solo quando fai la scansione tu, manuale, allora te li trova, i virus, se non hanno fatto danno, te li elimina. Invece pagando lui rimane attivo anche in background, appena intercetta un'operazione l'onfio, un file l'onfio, un link l'onfio, qualsiasi cosa di l'onfio a becchi, te la blocca già in automatico. Invece ho la versione gratuita, devi fare la scansione manuale per trovare i virus, capito? E così non ha senso. Vabbè, quello sì, ma io uso il telefono applicato per divertirmi a Salvini, per telefonare, non per altro. Qualche volta vado lì cosa su marketplace a controllare quello che c'è, poi basta, non mi interessa nient'altro. Facebook non guardo quelle coglionate che ci sono e buh, sono solo coglionate. Ragazze che stanno cercando ragazzi da mettergliela in culo, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto cosa cazzo non si a fare a Facebook? A nulla. Infatti che risulti, non esiste. Tu mi avevi parlato di un link di WhatsApp che ti era arrivato, ma chi te l'ha mandato questo link? Non lo so, mi è arrivato questo link, dice WhatsApp, apri link, ho aperto link, poi c'era Donovan, cazzo, come ho aperto il link e cominciato, cazzo, telefonate, una per volta, cazzo. Siccome ho parlato con la Santander due giorni prima e gli ho detto di lasciarmi in pace che era tutto a posto, pagamenti eccetera eccetera, ho detto, dice, adesso vi faccio favore che arrivano telefonate mattina e sera l'ha detto, e tu faccia quello che vuole, e questo mi è venuto in mente, e capito questa stronza romena, cazzo, ha preso cazzo e mi ha mandato il coso, mi ha mandato. Di queste magie strane se ne facevano anche negli anni 90. Ah, ti spiego, io ho avuto nel fine anni 90, ho avuto un telefono tedesco, l'avevo preso la scarpa, era marcato Nortel ed era uno dei primi rivoluzionari a avere il viva voce e la chiamata vocale. Cioè, tu gli dicevi il nome e lui ti inviava già la chiamata, no? Eccetera. Beh, un giorno mi squilla il telefono, una notte, vado a guardare il numero di chi mi chiamava ed era il mio numero, cioè qualcuno mi stava chiamando col mio numero, fine anni 90, e ti renditi conto. Già me lo immagino, lo sto dicendo. Me l'ha fatta pagare, me l'ha fatta. Scema. Adesso me lo di chiedere a un amico di fargli la stessa identica cosa, capito? Lo stesso giochetto. Questa volta ti faccio paralizzare tutti i numeri telefonici della Santander, così a me lo ricevono tutti le telefonate. Porca miseria, io c'ho ancora il naso chiuso. Il problema è, non riesco manco a respirare, c'ho la narice sinistra completamente chiusa. E comunque ascolta, ma Antonio, per WhatsApp tu cerca di tenere solo i contatti che conosci di persona, cioè famiglia, amicizia che conosci di persona, cibi che conosci di persona, e blocca tutti quegli altri che non sono in questa lista di persone strettamente conosciute. Capito Antonè? Per evitare che qualcuno malintenzionato mandi messaggi o cavolate. Anche io ero stato contattato da personaggi ambigui, con nomi di donna poi, che una richiesta di contatto, cos'era? Una richiesta di contatto, io l'ho ignorata perché era strana anche il tipo di richiesta. Cioè, non era in elenco, non era nell'indirizzo tra i numeri dei contatti, capito? Mi è sembrata strana questa storia. E quelli sono numeri strani, lo sai, Virginia c'è scritta volta a Milano, volta a cosa, volta a Roma, eccetera, eccetera, ci cagano sempre. E poi sono tutti la domanina, insomma, hai capito? Tutti i numeri, insomma. Ma mi è andata un pochettino male, perché io non c'ho testato nulla nel telefonino. Manco la carta, hai capito? Io non pago con la carta col telefono, quindi alla poco la roba se la su. Una carta ce l'ho tappata, posso togliere i coso, i dati, quando la carta non la sanno. Quindi a un certo punto, quando controllo la carta, è biota, hai capito? Vuota, proprio vuota. Quindi si attacca la tuppa. Io per quello, Antonello, devo tenere protetto quello smartphone, perché io ci faccio anche roba burocratica, speed, spod, spad, quello che vuoi, agenzia delle entrate, catasto, vabbè, uso anche il computer fisso, fisso, portatile poi, già capito, il computer Windows, però per quello metto antivirus, antispyware, tutto quello che serve, per quanto serve molto relativamente quella roba, cioè se trovi l'hacker bravo ti rivolta come un calzino tutto, ti inchiappetta tutto, indirizzi email, tutti gli account di, che ne so, WhatsApp, di coso, YouTube, e tutta quella roba commerciale anche, capito? Già lo so, ce l'ho visto fare un lavoro del genere tanto tempo fa, quindi figurati. Vabbè, io mi assento per un quarto d'ora, 20 minuti, sono un attimino a Silis per vedere cosa c'è di buono a poco prezzo, tanto che ci sono i saldi oggi, sta appena aprendo, quindi vediamo cosa c'è da prendere. Poco fa nella macchina io ho preso delle colombe, 6 euro, la verità, una classic, una normale con la limone, e una classica e un'altra normale, 6 euro guardate, in offerta. Ma adesso vediamo un pochettino cosa c'è di buono. Ehi Antonè, va bene, allora faccio una pausa anch'io. Porca miseria, devo dare ancora da mangiare alle gatte. Cioè, le gatte non hanno pranzato, poverette, adesso li do tutto, dai. Ci sentiamo Antonè, dai, buon proseguimento di serata, se posso rientro più tardi, ok? Non ti ho capito Marco, dimmi. Ho detto che faccio una pausa anch'io Antonè, se posso rientro più tardi, ok? Già, va bene, ok, dopo, dai, ciao. Hola. Hola, attenzione, binario 10, K. Hola, hola. Attenzione, binario 10, K. Chi è avanti? Ciao Antonio. Ciao, buonasera. Io ho sentito chiamare dall'altra stanza, eravamo con Pomponio fino a mezz'ora fa, poi è andato a fare la spesa, cappa, e sono andato a salutare, dai, adesso me ne torno là. Cappa, cappa. città va bene. E tu mi copi bene di modulazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E beh? Non mi sento. Ah beh, ha ragione anche lui. Ma come mi senti? Sì, Anto, ti copio. Ti copio. Ti do... Hola, hola, mi senti? Hola, hola, hola. Che c'è qua, avanti? Uomo del monte. Ti sento un bel basso, ti sento. Ma di qui ci rimane con la macchina. Scappa, sto usando un maracchinetto. Poi che cambio radio. Attenzione, canale 10. Cristian, non sei tu, sei. Ora, ora, ora, tre, prova. Scappa, questo qua va un po'. Come si dice? Quello pompa, Pompa questo, vero? Quello là non ti dava niente. Beh, diciamo, per dentro città fa ancora bene. Chi è l'altro amico che lo copio basso? Oh, Zoe, come si chiama? Cristian. Ah, ok. Vabbè, un pochino basso. Anto, questo bip lo riconosci? Beh, sì. Ti ricordi che apparato era? Di conoscerlo, più che altro mi sembra un microfono. No, è dell'apparato, è il bip dell'apparato. Ti mando, ti allego foto, dai. Gappa. Questi che accendo il 48, no, l'87 accendo. C'ho questo Inter che cavolo lo vorrei usare, ma c'ho il microfono suo. E quel bip lo conosco anche io, No, ma... Aspetta. Io a tentativi, vabbè, l'ho detto mille volte in radio, così è barare. Sì, mi lamenta assai. No, ma Antonio è più piccolo di me, magari non se lo ricorda nemmeno in quegli anni. E che si lamenta? Ora. Andrindi, che ti mandi alla mazza. Sei innescando la grande. Ehi, Mario Anto, innesca forte. Innesca. Sì, tienila così, Anto. Grazie. Adesso vi faccio un collegamento per l'Intec, che è un buonissimo apparecchio. Guardate i peli! Madonna! E come peli siamo, Gabri? Scusate. Con l'Intec? No, questo qua è l'87. Non si capisce niente. Lo si è parlato sì. Ora c'ho l'87 87 c'ho. E io sto facendo bene, dai. È buono, vero? La radio è buona. Adesso voglio fare l'attacco su un Intec. Intec cosa buona. Sì, cosa sei già buono, Lucio Truesse? Ma basso sono... Non dicetto un carrera lunga, sì. Beh, sta qua che non serve più a nulla, vogliamo... O facciamo i fili nuovi. Sono bravino io facendo questa cosa, eh. Ho tutti i fili. No, cazzo, no, mamma mia, mi stanno già prendendo i nervi, eh. Hai passato il telecomando, aspetta un attimo. Lo fai uscire il gabbo a Antonio col bambino. Ogni tanto mi fa tirare. Non fa. Cioè non mi posso guidare 5 minuti, non mi posso guidare. Vieni qua! Madonna, Caterina mi fa uscire il gabbo. La cintola ancora, la cintola. Basta far sentire solo il rumore. Sei piccolino con la cintola. No, no, vabbè, sto scherzando, ci mancherebbe. Poi adesso non... Dice che mi pare che per legge, anche quando è più grande, non gli puoi dare manco uno schiaffo che ti denuncieggia, capito? Non li puoi educare i figli praticamente, così è. È piccolino, sai cos'è? Che ti fa tenere, ti fa cos'è? Il buon accudiendo, ciò lo vuole fare perché gioca, è giocherellone, capito? Chissà come ti dici tu quando è il minoretto, ma ognuno di noi ha avuto il suo. E sicuramente faccio le stesse cose che fa lui. Vieni qua! Madonna! C'è qualcuno? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, prova, prova, prova radio. Oh, Marco, attento Marco, mi senti? Ricorda il babbo d'olio. Ah, watch we. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, hola. Chi c'è rimasto qua? Ci sono io, questo è l'Intec, com'è? Buonino, modulazione sembra normale. Fai un passaggio lungo, stavo carrellando i canali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sembra che funzioni questo. Sì, Anto, io ti ascolto bene qua, niente da dire. Va bene, stavo girando il canale a vedere cosa c'era. E adesso ripasso in camera, mi stavo ascoltando un po' di musica varia. Va buono, Anto, ci sentiamo, dopo guarda il messaggio, ciao. Capo, questo è l'Intec 500S, non ha 40 canali, però io l'ho aperto. Va bene, qua, capito. Ho visto che esce abbastanza bene in modulazione. Sì, l'FM500S l'ho avuto anch'io. E l'avevo regalato poco tempo fa a Pomponio. E anche quello aveva più canali. Cappa. No. Questo era originale, l'ho aperto io questo qua. Insomma, va però, va bene. E più o meno era come l'Alan 68, da. La Intec faceva l'Alan 68. e la Intec e l'FM500S. Poi ho fatto il 548 SX, che era come la LAN 48, 40 canali, le solite regolazioni, volume squelch, mic gain, ref gain, menate varie, dai. Le due spie LED, come il 48, dai. K, questo comunque è buono, perché no, daccelo anche io quello lì, quello che stai dicendo tu. Ti ho fatto il coperchio arancione, ce l'ho anche io quello lì. Eia, io ho avuto anche il 548 6X con la modifica a 120 canali, proprio con la levetta col selettore sul coperchio. Quello te lo vendeva direttamente la Intec, quel kit completo di tutto, staff originale, cavo originale, microfono originale. In realtà non avevo necessità di venderlo, infatti mi chiedo perché l'abbia venduto, svenduto anzi, è perfettamente funzionante anche. Cappa, ho qua un bel apparecchio, mi piace molto, era originale quando l'ho comprato, era immacolato proprio, vabbè, l'ho aperto io i canali, gliel'ho aperti, ma c'è solo il 40, niente di che. Manca il 40 hai detto? C'è il 40? Quello io lo ottenevo tra canale 1 e canale 2, mettevi la manopola intermedia, sentivi un po' meno QRM, quello era il canale 40, ti risulta? No, ci va direttamente. Ah, ok, no, da me era diversa la modifica. Ti spiego, nella mia modifica, mia che poi non l'ho fatta io, c'erano, con una levetta potevi attivare dal canale 30 al 39, il 40 lo ottenevi tra l'1 e il 2, però quello già da apparato originale, quindi qualche canale gli mancava, capito? Dopo il 25 mi pare gli mancavano, dal 26 al 29 gli mancavano. Vabbè. Coppa, ma c'è una ricezione che è una cosa fantastica questo apparecchio. Cosa stai facendo? Madonna, me ne combina tutti quanti di colore. Ha una ricezione che è una cosa fantastica proprio. Quello è questo, se poi quello. È uguale a quello. No, io ho l'M 50-36 in macchina della Zodiac. Ce l'ho anche io uno Zodiac, ce l'ho, ma non mi va bene. Io ce l'ho qui in macchina, parcheggiato sul lato del lato passeggero. Cappa, lo volevo mettere anch'io, ma no, boh. Non mi è venuto lo stimolo, lo sai. No, io ce l'ho lì in macchina, tranquillamente, lo uso raramente, ma ce l'ho sempre in macchina. Già l'ho visto, mi sei passato a fianco ieri. Perché non si vede non si è visto l'antenna, no? E ne ha una uguale come ce l'ho io, ne ha. Allora, quell'antenna che ho io, in origine era la frusta nera, che ha cambiato lo stile e basta. Porco Dio. Perché non mi pare, lo stile dell'antenna non mi funziona, la frusta nera, non so perché non funziona, devo farla controllare. Ma frusta nera originale, che marca era? Qual era? Quella della LEM? Io ce l'ho. Anche io ce l'ho, quella che c'è la base magnetica piatta e larga. Io avevo fatto un intrallaccio strano, avete presente la boomerang della LEM, quella lunga, non la mini, la normale, tutto lieve e radiale che ha lo stupido di taratura. Lo mettevi su una base magnetica, per dire, c'avevo anche l'adattatore, no? Da galletto a PL. E con lo stupido di taratura perfetta gli davi 1-1 su tutti e 40 canali. No, pure questa c'è, cioè, così di taratura sull'antenna, anche la mia ce l'ha, della frusta nera. Via. Magari la stessa, ma c'è anche quella vite che si stringe per tenere lo stub in posizione serrata? No, te lo so dire, io ce l'ho praticamente che dell'acido piatta, quella piatta dei tipo anni 80, c'è presente, tipo da sbirro. Sì, più o meno. Io quella lì l'avevo data, era nuovissima, cioè era stata tolta da una quel radiale dalla Boomerang, che era nuovo, l'avevo dato a Natalino, poveretto, non sarei potuto nemmeno godere. No, a me guarda, mio fratello grande, anche il mio riserva. Anche io ce l'ho la Boomerang, ce l'ho in magazzino. Chi è che sta parlando? Ah boh, io ho messo un po' di squelcia, tu, perché c'è un po' di mondezza in aria. Già lo so, anche io ce l'ho la Boomerang, lo sai, ma l'ho messo in magazzino, non l'ho più, ma un periodo ero mezzo intenzionato di piazzarmi anche quella sul tetto, ma poi no, non se ne è fatto niente, non l'ho piazzata. Eia. A me è rimasta, allora, la Boomerang grande no, mi è rimasta la Mini Boomerang della Lem, chiamata Mini Boomerang, Mini Boomerang, però non serve molto, cioè la taratura è troppo critica, inoltre l'antenna sembra elettricamente troppo lunga, cioè anche se tu gli chiudi tutto lo stub di taratura, che in quel caso mi pare sia in punta, risulta elettricamente lunga, ti risuona troppo sui canali bassi. E uno lo stub lo toglie o proprio lo taglia millimetro per millimetro, il poco che rimane, ma non ne vale la pena perché è troppo piccola e troppo caricata. Io ho quella grande, ciò. Bomba forte quella. Eia, soprattutto se la metti sul tetto, per esempio il profeta credo che abbia quella, presumo che sia di quella marca, della Lem, è messa sul tetto, va, viaggia che è un piacere. È come che abbia una 2001 sul tetto, la 2001 sembra una tonna di macchina, e quella lì è, dico che spinge forte, arriva un bel forte il profeta, non l'ho più sentito adesso, ma ci vuole davvero un bel nome. Beh, secondo me anche di più della 2001, perché la Turbo è un quarto d'onda caricato e invece quella Boomerang lunga ha il radiatore, no, l'elemento radiante, che è un quarto d'onda full size, quant'è? 270, 265, e quindi dovrebbe rendere un po' di più. L'unico caricato è il radiale. Lo so, però la Boomerang sul tetto spinge forte, te lo posso assicurare. Eia, poi se c'è una posizione buona, libera, che non sei troppo attaccato a palazzi più alti, va bene. Va benino come antenna. Credo che la producano ancora, e se la trovi la trovi da Fusaro. Era buono averne una di scorta anche, perché quella la attacchi anche al terrazzino, capito? Non è come una Grand Plain che c'è i radiali inclinati in basso. C'è la Grand Plain sul terrazzino, è sempre un macello. Invece la Boomerang c'è la staffettina apposita. Va bene. Riprendi, Christian. Oh, ha chiuso Christian. No, ma lo so. Comunque io ce l'ho, ne ho una che ne ho venduto. L'avevo venduta una. Gabri! L'avevo venduta a Luca una. Attaccando bombava. Ma arriviamo per fossimi. Io da far fare il vecchio lui da latte dolce, arriva quasi a fondo scala a me. Eia. Venduta, la roba non si vende, tanto la roba si regala. No, quella lì l'avevo venduta, una ce l'ho, io la Boomerang ce l'ho in magazzino, non l'ho più data a nessuno, anche perché costa parecchi soldi quella. E relativamente, dai, quanto sarà la Boomerang della Lem, quanto costava? Io penso una quarantina di euro. Sì, non è poco, ma non è nemmeno tanto. Di più la giubagata. Però mi sembra un prezzo un po' fuori mercato, vabbè, io sono rimasto molto indietro con i prezzi, però se adesso costino molto di più. Guarda, pre-Covid costavano intorno ai 40 le Boomerang della Lem, poi non so. Sono aumentato, però una cosa, sono soldi spesi bene, è l'unica che funziona, l'unica. Come l'unica? Guarda, ci sono altre Boomerang valide, c'è quella da Sirio, l'assedio, la boomerang dell'assedio è una bomba lo stesso, e c'è sia in stile di resina, retroresina, oppure stile tutto in alluminio, due versioni. L'hai rotto! Porco Dio, aspetta che vado. Però ci voleva un bestemmione via radio, eh. Cazzo, mi ha rotto il telecomando. E vabbè, ne già ne trovi sostitutivi, Anto. Se non si può riparare, trovi ricambi, quelli universali, mi. Scusa, non volevo bestemmiare, ma... Cioè, io quando vedo le cose rotte vado su tutte le furie. Troppo ha durato. Ha durato troppo. Forse ci si facendo incazzare riesco. Ma dimmi, domani di barra di telecom, mica non avevo giocato loro. Vabbè, tu, altro che quello dico io, però non in radio, cioè, lo dico in privato, capito? Ci passa il principale, il figlio e anche la madre del figlio. Va, sono riuscito a aggiustarlo. Bene, tu, dai, come ho detto prima, dai, passo nell'altra stanza, mi stavo ascoltando un po' di musica assortita. Dai, sentiamo in migliori condizioni, come sempre, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. E comunque va benissimo anche questo apparecchio, è una bomba. Ehi, ha voglia, ha voglia. Guarda, per parlare in città basta così poco. Io potrei abbassare la potenza anche a 200 mW, a bozza, eh? Allora, Anto, adesso sono di portante muta 200 mW, cioè 0,2 W. Modulati potrebbero essere 300-400 milliwatt massimo. Il segnale è molto calato. La modulazione è aumentata moltissimo. Il segnale va, non più di tanto. Sì, sì, guadagna molto, guarda, poi ci metto 2 watt. Ecco, così sono 2 watt. Modulati meno di 2,5, 2 watt meno di 2,5. No, va benissimo, va. E il segnale quanto sto arrivando io? Allora ti spiego, Anto, qua segna 9, però è un problema dello smitter che è da sarebbe da tarare, perché non è lo smitter originale, perché l'originale era rotto, quindi sarebbe da tarare, ma non c'è il tanto. E tu se avrai il minimo sarai 9,25, quindi da adesso è per non attaccare l'altro apparato, ma siamo lì, sempre fuori scala, sì, alla fine K, e già va bene.